persona che piace il cappuccino la mattina è quello, mi piace con la schiuma, capito? Io il caffè lo faccio con la mocca e il cappuccino, il latte me lo faccio con la macchinetta, perché quello del cappuccino funziona. Venga, allora inizia anche cosa ti se l'aria calda ti scalda il latte, eccetera. Ma io me lo metto al microonde, lo metto meno di un minuto e si bollendi. Ma non piace la schiuma che faccio io. Io faccio proprio la schiuma bella, ambrosa. Vabbè, con quella fai dell'aria. Ce l'ho anch'io con la macchietta, uguale identica. Ma l'ho messo da parte, dopo il corrente, lo sono dimulito, dopo un casino faccio io. Troppa roba che... E la spolverata di cacao dove la mettiamo? Milovic, ciao Martolini. Ah. Ciao Martolini, ciao. Gianni, sono entrato. Io sono così vizioso che mettevo anche la spolveratina di cacao amaro sopra la schiuma. Anche io lo mettevo. Prima, però adesso mi sto riducendo tutto perché stavo andando male la glicemia e allora ho da buttare un po' tutto. Peccato, perché se uno è di buona forchetta, a cui piace tutto, il diabete è una condanna, è una rottura di scatole. E io dicevo a mia zia, che vabbè, con la medica, ho detto, ma scusa, se io eccedo un po', non basta correggere con l'insulina? E no, dice, entro certi limiti puoi correggere, poi però non funziona così, caro. Diciamo che l'insulina non fa miracoli, ti aiuta, ma non fa miracoli, mi devi fare anche tu. Vai. Io ho eliminato anche i gelati. Non mi ha più il pieno. No, perché l'ho finito, non l'hai più comprato, non l'ho comprato più. Non so cosa conviene, come faccio io? Se mi viene voglia di gelato me lo compro al bar, uno però, perché se ne compri tanti poi viene voglia di mangiarli. Sì, Marco, lui ne compra uno e poi va al bar. E infatti, se vi do un calzone di un chilo di gelato, a te ne pare. Capisco perché gelati, ho preso anche ghiaccioletti che c'erano da Lidl, giusto per avere qualcosa di più dissetante, che non il gelato è più già cremoso e corposo, tutti e due, un po' cornetti, poi quello che sembra il magnum con il cioccolato fuori, e un po' di ghiaccioli, dai, per mitigare il caldo, per ora. Mi sto tenendo molto calmo e se no mi sto per accendere, per la stagione estiva, sto per accendere il friggerino personale che ho in camera. Quello lo riempio di gelati, è pericoloso. Allora, dei ghiaccioli è raro che le trovo perché fa una ruba, all'aerospino. I ghiaccioli in sorbetto sono i migliori che ci sono, è proprio il sapore della frutta. L'altro non si viene a nulla. Sì, il sorbetto è insuperabile come bontà. Il ghiacciolo, vabbè, ci si accontenta, ma tanto costano talmente poco. Sono 10 ghiaccioli, credo che siano 2 per ogni gusto. Dovrebbe essere tipo il solito, cola, arancia, limone, uno verde sarà la menta sicuramente, poi un altro che non so se sia fragola o cos'è. E l'altro è sul viola, dai. Invece qua c'è quella limone in più. Gianni si compra le vaschette da 4-5 kg. Non è che vado al gelataio, dice ne compro uno il gelato, sì, però si compra la vaschetta del gelataio, quelle che danno sfugge, se la mette nel freezer e attinge da lì. Sì, davvero. No, sto comprando proprio un cornetto, una cosa così, per non comprare gli altri. Ascolta, domandina così tanto per rimanere in tema. Preferite creme o frutta? Il gelato sfuso, creme o frutta? Creme, frutta. Io creme, mamma frutta, e lei se lo pigliava sempre ai frutti. Io creme, tipo tiramisù, coso, toroncino, zuppa inglese, mamma mia, mi sto sentendo male, ho appena pranzato e mi sta venendo voglia di gelato. Gianni, latte, cioccolato. Gianni, io ho un video, l'ho preso e c'è addirittura, hanno fatto tipo una tortina, ma non è torta, con l'anguria, spremuta, frullata, strizzata, poi ci hanno messo a poco per mezzo, insomma, ha messo in freezer, ma tu devi vedere la bontà, che quanto è buona. Ma l'hai gustata? No, ma si vede che è buona. Cazzo, come con me, che sembrava una pesce mangiata. Oh, sembra un mulino, ma non c'è quanto è torta, cazzo. Ma volevo fare, mi sono preso il video, adesso... Se la vuoi fare, ti mando il video, sai cosa devi fare. Te l'avrai mangiata con gli occhi, magari. Sì, quasi tutta. poi io quando sono i miei grani rigelati, certe volte metto lo yogurt in freezer e aspetto che si quasi che si condensi, che si solidifichi quasi, però che sia ancora cremoso, ma me lo mangio così. In freezer lo metto? Lo yogurt, non budino, è yogurt. Quando non ho gelati, che è estate, che è caldo, lo metto in freezer, lo faccio un po' condensare bene col freddo e dopo tutto è buono, tutto buono, è anche di buon appetito, è tutto buono già. E fa tutto male poi, ricordati, tutto ciò che è buono nella vita fa sempre male. Ma con lo yogurt puoi fare tante cose, ci puoi mettere la frutta in mezzo, frullarla in mezzo e diventa una delizia. Sì, sì, sì, forse una volta l'ho fatto, però alla fine già, o mangio yogurt o mangio frutta frullata. A proposito, col frullatore, quello a bicchiere, mi facevo i frullati, mele, banane, pere, fragole se ce l'avevo, metti il latte, zucchero, mamma mia, mamma di turchi. E non l'ho mai mangiato, non l'ho mai bevuto, il succo di frutta alla pera con il latte fresco. Allora, succo di frutta, pera e latte fresco, no, no, no. Prova a farlo, e tu vedi la risposta. Ah sì, ma freddo ovviamente, tutto mischiato freddo, no? Esatto, sì, fresco, sì, sì, fresco dal frigorifero. Ci metti il latte e poi il succo di frutta. E poi lo giro. Vabbè, un po' strano, no? Non l'avevo mai provato quello, ovvero? E provalo, è dissertante, è buono e dissertante, se faccio niente sotto fondo. Ah, io ho lo squarcio chiuso, sì, sempre do segnalini bassi, intorno al 5-6. Deve essere propagazione. Ah, oh, stanotte è la notte della superluna, mi, tutti a ululare alla luna stanotte. Dice che appena sorge sull'orizzonte è eccezionale, è enorme. Dovrebbe essere o rossa o giallastra, arancione, capito? Poi vabbè, appena sale diventa bianca. Però è una delle più belle, è chiamata la luna del cervo. Ah, non è un'eclisse lunare? No, no, no, luna piena, piena, però una bella luna, hanno detto. Luna! Spunta la luna dal monte. Quello della Liguria non lo trova. Guarda che ci ha mandato un video di un tipo che sta mangiando un po' di spaghetti, guarda. Ma chissà cos'è. Marco lì, pure te l'ho mandato. A me? Aspetta e guardo, vediamo. Vedo già nel riquadro un tipo magro, un ben magro, aspetta che mi si sta aprendo, eccolo qua, non c'è l'audio, aspetta, cioè questo è un lavamano di spaghetti con le cozze, un lavamano, ora, Cristo, guarda la pancia, gli arriva al di sopra del pisellino. Ma così a spaccarsi, cioè così è proprio a spaccarsi, perché guarda quanto è sovrappeso, ma non è un bel vedere, dai. Minchia, guarda, nebbia, un lavamano di pasta, qualcuno lo dice scherzando, no no, questo sta mangiando un lavamano di pasta. Fammi sorti sotto pancia, cosa c'ha? Aspetta, sei troppo amplificato, ho detto la pancia cosa c'ha? Io vedo la pancia che copre addirittura l'altezza del pisello. La sedia copre. Sì, credo che stia sfiorando proprio il bordo della sedia, anzi probabilmente ci poggia pure, minchia. Gianni, l'hai visto? Quello è, così diventa Gianni. E lui fa la dieta così. Gianni, è venuta la pulina, stasera se la fa anche lui, guarda. Ogni forchettata, c'è una forchettata sua, sono 5 forchettate mie. Cosa sono, bucatini secondo te? Sembrano grossi, più che spaghetti. O sarà il numero 5, o il numero 7, più manni, non lo so. C'è una certa vergogna, raga. Poi continua a ingrassare, grazie, arriva al cuore, ciao. Che roba che quelle donne che ci sono dietro se lo guarderanno male, una sta già guardandomi, quella bionda a destra sta già guardando, si vede verso la fine del video. Sogna abbiata, va bene, una vaccinella. C'è un chilo di spaghetti minimo là. Però guarda che portamento, che eleganza, si vede che è un lord inglese il signore. Sì, sogna. Si sente il piatto il volto, e sogna forte qua, paga. Guarda, mi ricordano i video di quel ragazzo che era anche abbastanza giovane, molto sovrappeso, che faceva i video, che si mangiava una teglia intera di pizza, cioè teglie enormi, piatti enormi, tipo questo. Si chiamava Io Tubo Anche Io, aveva gli occhiali. E tutti li invogliavano, sì dai, faccene altri questi video. Praticamente poi è morto, secondo me, per le condizioni di obesità troppo accentuata. Però, capito, i suoi cosiddetti fan lo invogliavano ad ammazzarsi di cibo, e quelli, cosa credi, gli volessero bene? Proprio per niente. Lo volevano vedere mentre si ammazzava di cibo. Ma io conosco Jimmy, che era un bel ciccione, ma davanti a Maracchino ha parlato. E poi alla fine le ha provate tutte, si è andato a operarsi, a fare quel lavoro per dimagrire, ed è morto sotto i ferri. Non so se l'hai conosciuto, si chiamava Maverick. No, no, niente. Né il nominativo, il nome che com'era? Non me lo ricordo, Marcoli, non me lo ricordo. Abitava a Montrosello Passo, perlomeno, prima in via Giovanni Pascoli, c'è detto. No, mai conosciuto. Ehi, tu il baracchino, io ero troppo giovane, io stavo con gli amichetti nel canale 1 sotto, più che altro. Vabbè, ma Gianni è andato via. È entrato adesso, si è spostato a prepararti i spaghetti. È andato a aprire il frigo, mi. Aspetta, ha parlato di quel Jimmy che era grasso, che poi alla fine si è cercato a operarsi e è morto su dei ferri. Maverick, tu l'hai conosciuto già? Barberick, no, non me lo ricordo. Montrosello Passo, cioè praticamente lo abitava lui un po' più in giù e trovava subito via Giovanni Pascoli. No, questo Barberick, via Pascoli mi ricordo Sciavo 2, qui c'era Aquila di notte, Aquila della notte. Allora, praticamente tu prendi una, adesso non mi ricordo la via con esattezza, prendi la via Petrovica, là sopra tu scendi, no? 200-300 metri prima di arrivare via Giovanni Pascoli, quella zona così stava lui. Ah, dove c'è il laboratorio di Giulio? Non mi ricordo che via è, sinceramente, ma è stato parecchi anni fa, infatti pensavo che lo avevi conosciuto. Ma lo sai che non era grosso, un me, le ha tentate tutte, alla fine è andato a operarsi e ci è rimasto sotto i ferri. Ma era grosso tipo la Cina? Più grosso ancora. Il cacchio. La Cina è morto, Minuccio. Sì, sì, sì, me lo ricordo che era morto. Veniva, andava in quelle bar via... Ma dopo Viale Trento, come si chiama? Non mi viene. Quello tra Viale Trento e Via Roma, Via Umberto e Via Roma. Uff. Io lo trovavo spesso al Palazzo della Provincia a Valdicca, perché noi ci lavoravamo lì. Ma Vito era la Cina. Via Bellieni. No, Pinuccio mi si chiama. Oh già. No, io conoscevo Vito. Vito morto. E Vito è quello che parla tipo la vocina viziosa. Ah, Vito, state parlando di 40 anni fa, Vito, è un po' che era cattivo con noi bambini. Lui guardava. Telefono. E comunque quello c'ha di ammettere, sono cieco diventato, penso sia ancora vivo pure. Quello lì era un tesoro di Puma, la rapporatore era vecchio. Vito Sorgia l'ha chiamato per nome e per cognome. Lo sai che mi sono fatto attuare tutti ridendo. E lei lo sa, è certo che lo sa, mi aveva fatto i soldi, quello che guadagni tu lo dà a me. E sempre i passaggi si trovava lui, alle biciclo per andare a Platamona, me ne ammetto ancora un bel anno fa. Che uno stava puttigliando, no, giovane, trovavano di cazzati, perché l'ho conosciuto che ero un ragazzo io, cos'è, l'anni sono un bambino passati. Tony, una volta è andato da un tassista e ha detto, ma allora passaggio? E lui ha detto, mica sta passando il carro a crisi, fate una E poi quello è parente alla moglie di Mario Barbariccia, di Rita Pasquetta. Ah. E ma gli davano le caramelle, l'ha ammassato la gente, gli davano le caramelle, capito? E abitava praticamente ultimamente, cioè anni fa, non mi ricordo, 4-5 anni fa, non mi ricordo, sotto il palazzo dove mia sorella, la Bretellina. E viaggiava a Portatore, sai perché cosa? Io andavo, vabbè, a lavorare, entravo alle 8, lui andava alla nave, aspettava i turisti che scendevano e gli chiedeva le limosine. sempre passaggi che deve fare, invece no, Maverick era un bel grosso era, infatti alla fine si è deciso, ma io vedo, cioè, per esempio su Real Time che qualche volta farò vedere questi ciccioli, però il dottore gli dice quando va a Texas e Houston, gli dice di deve scendere di peso, poi se me la può operare, prima no. Chi sa dove sì, l'ha operato senza farlo dimagrire, era troppo grasso e c'era il macrisotto. Sì, ma molti non obbediscono, molti quando lì peso risgava. Ma lei ha mangiato di più, invece che di meno, ha aumentato. E poi mi fanno ridere questi qua, no? Ci vado dopo 2 mesi, e aumenti mai, invece di scendere 20-25 kg, si è aumentato 5 kg. Però non mangio niente, non ho seguito la sua dieta, ho seguito. Io alla mazza di fare, perché quando ci ho dottore, si fermava a fast food, via magna, via. E quelli pesano 300 kg. Uno è arrivato addirittura a 450 kg, poi è morto. Vabbè, quindi... Io ho cambiato microfono perché a me questo microfono è troppo pesante e allora sono più leggero, ma per il mare. Sai che mi ha chiamato Franco, va? Cosa? Mi ha chiamato Franco. Ti ha chiamato Franco? Non ti ho capito. Gianni? Oh già. Tony? Ehi, non ti ho capito. Era Franco California che mi ha telefonato. Ah, ho capito. E l'altro che stiamo venendo da te è a chiuso, aspetta che lo richiamo. E perché non entra in frequenza? E da Sirmione entra in frequenza, anche se sia Sirmione. Ah, è pura sì. Attenzione Branco, per conti di cittadini. Avanti Branco, avanti. Scoppiato l'hai già? Sì, lo sento, ma basta. Ma in mezzo a livello QRM sta arrivando basso. L'amico non ho capito dove ti trovi, eh. Ah, ma la mobile, ok, che sono sì. Milano, caso, noi siamo a Sassari comunque, dai. Sonino Kawasaki di Sassari, compagnia di Gianni Doppio Lucca, te lo mando avanti, avanti Gianni. Ehi, sì, allora. Ciao amico, mi sentite? Non ho capito il cuore in retta. Qua è il doppio numero della città di Sassari, nord Sardegna. E basta. Lo so. Attenzione amico, Lombardia, Milano, se mi stai copiando ancora, Tonino Kawasaki. Ok, anche tu ti vai bene adesso. Guarda, come modulazione in radio, ti arrivo meglio così? Attenzione Milano, è propagazione brutta c'è. Attento l'amico di Milano. Ora attenzione Milano, ci ascolti Sassari. E dove si sta camminando in macchina, ecco perché a volte arriva forte, a volte non si sente. Negativo, sono in stazionamento, sono fermo. Ah, ok, ho capito che sei fermo. Ho detto, guarda se la mia voce, la mia radio migliora in questo passaggio. 1, 2, 3, prova di modulazione. Avanti l'amico in Barabuco di Milano. Perfetto, segnale non è altissimo, è 5, ma la radio è perfetta. La radio è bellissima, ancora per te col cambio. Ok, ti ringrazio. Avanti Gianni. Dai, c'è troppa sovramodulazione, anche quando stava parlando c'è la sovramodulazione qua. Scappa, non so se mi ascolta, dai, la stazione doppio rutto super cordializza, avanti l'amico di Milano col cuore Z. Scappa, Ringhio, Milano Nord in questo momento in auto, chi ti ascolta anche a te. Anche a te. Scappa, Ringhio, dai, in questo passaggio mi sei arrivato a Santiago di 7, la radio di 4, dai. Non so come tu stai ascoltando a me, sono liscio liscio, non sto usando nulla, dai. L'hai sovramodulato già. 5-5 il rapporto. E capo, comunque poco fa l'hai sovramodulato, involontariamente forse non l'hai sentito quel passaggio. Ok, bene mera, sì, io ho parenti comunque a Milano, San Martino di Mareggio. Kappa, io invece ho la moglie della Sardegna che è qua di fianco a me. Kappa, di dove è tua moglie? Monte Antioco, cambio. Caspita, delle parti di Cagliari, ho capito. No, noi siamo la parte opposta, praticamente il nord-ovest della Sardegna, Sassari. Kappa, sono io amici a Cornaredo, a Milano, a Cugiono e a Legnano. Tutta la Sardegna. Comunque, complimenti. Arriva abbastanza bene. anche di temporale, perché si sta mettendo un po' giù, un po' cattivo il tempo. C'è un'umidità fantastica e ci saranno, anzi ci sono al momento 32 gradi qui a Milano, per te cambio. E qui siamo arrivati anche a 38, qua adesso poi è calato, adesso oggi si respira, c'è un po' di venticello, adesso si sta più bene, dai, meno male. Ok, contraccambiato al 100%, 7351 anche a te, Corea familiare. Salutami la signora, spero di ricopiarti alle prossime. Ciao, stammi bene. Avanti Gianni. Ciao amico di Milano, dai, ben sentito e grazie per il QSO. Avanti Gianni. Ecco. Sì, con la posizione dell'antenna che l'ho spostato già. Copio molto meglio anche portatore, Zerghero. Allora, vuol dire la posizione che era prima era un po' negativo per queste zone qua. Ma se io quando vado al quadrato, se mi sposto quello di Bosciolini di 10 cm, il segnale cambia completamente. E forse sono punti d'ombra che noi non sappiamo dove sono, quindi sono così delle tue accorge, capito? Niente, io l'antenna l'ho spostata di 3 metri praticamente. Dove era prima, che era vicino al cancello, l'ho messa fuori. Ho fatto il basamento in cemento, 3 metri. E quindi, dicevo, ho torso più forte, addirittura a Eugenio Santiago, non mai rivide noi, arrivava a 4-5, più oddio proprio. Algheo Santiago 5 sì, che non arrivava quasi, anzi, ma non lo sentivo mai, pensa un po'. A me mi ha migliorato. Vabbè, secondo la zona che la, secondo la zona che devi andare, magari c'è qualche ostacolo e non riesci a prenderla bene. E sono sicuro, se solleva 3 metri, minimo meno, aumenta ancora la recensione. E non credere, a volte sollevandola proprio l'ostacolo, magari è più bassa, non lo vede. No, ma io ho tutto pulito comunque, capito? Vedo tutto sasso, la zona tua... Più o meno sono libero verso la zona tua, Filighetto, tutta quella zona lì, Monte Rosello, Latte Dolce, io vedo un po' tutto qua, capito? Beh, lì è libero, anche per i paesi libero lì. Infatti io, ovviamente io sono più in alto, capito? Certo, se abitavo un momento, la parte bassa, stai tranquillo che non uscivo. Solo sul seno, in tutta quella zona lì. Gappa. Ma a Castelsanto, Gimino, ce ne sono, ma come è gentile? Ma a Castelsanto per me è stata sempre una zona negativa. Arrivo sia l'Isola Rossa, però Castelsanto, Badiesi, l'Isola Rossa, però Castelsanto è stata sempre negativa come zona. Ma ce ne sono, Gimino? Ma non lo so, non penso. Aspetta che tocco questo microfono che mi va a zimare la mano. Un tempo c'era, ma adesso non lo so. Oh, adesso respira col microfono. Ah, finalmente la voce normale. Questa è riposata, l'altra è troppo forte, troppo buona. Oh, ne arrivavo bene, mi ho messo una maretta. In lontananza arrivi bene, certo. Anche io arrivo bene con le... attaccato in lontananza, invece la sassa era riposato. No, io non ne ho lineare, quindi quello che esce il baracchino, però mi ascoltava lo stesso, dai. Ehi, vabbè. Giovedì rientra, Fra. Giovedì rientra. Hai mai detto da partire, infatti? C'è già da un bel po', mi. E poi ci sarà un paio di settimane, 10 giorni, tu? Sì, così. Si è comprato l'apparato 30 euro, l'apparato modificato. Si è fermato al rifornitore. Ha detto che cioè, si è avvicinato a questo marocchino e ci aveva lineari, di tutto e di più. Ma che l'ha furati? Tranquillo, mi fu. Andava. No, e beh, se aveva un buon prezzo, meglio così. Ne lo stavo facendo 50, però no, c'ho 30 solo. Tutto modificato, tutto con tutti i disegni sopra. Ma l'ha mandato a vedere, mi ha mandato la foto. Sei rigraffato praticamente. Esatto. E te so bene così, eh. Sì, e poi meno anche gli adesivi tipo serigrafati, capito? Però meglio fatto proprio come si deve con la vernice e un'altra cosa, però. Oggi mangio leggero io, eh. Trippa e più di l'agnello. No, domani pizza, però vuole la croccante. Però oggi no, non ne voglio uscire. Oggi cosa ci sono? Spinaci, oggi c'è la pina con fagioli, mais, carotine, roba del genere. Beh, lo sai che due pizze non te la fanno salire la cucina, se ne mangi quattro, sì. Non ho capito, se mangi quattro che cosa? Se ne mangi due di pizzette, non te le fa salire di glicemia. Ma... Sì, l'ho provato io, mangio con due pizzette di insalata, boh! Io mi gioco leggermente, mi ho fatto il salto di riso, no, non mi ha fatto salire la glicemia, era bassa. E che cosa ci ha messo dentro? Un vassone e via dicendo? No, soltanto ho comprato un barattolo di... con di riso e basta. Ho tolto tutta la pace da dentro, un filo di olio e vai. E che sa fare il riso? Che sa fare il riso? Si fa con wurstel, con la maionese, ci metti le cipolline sopra aceto. Il condiviso c'è tutto, la giardiniera c'è tutto, già, quindi ci sono le olive, c'è tutto quanto, tranne che la maionese non l'ho messa perché è troppo grassa. Ma è asciutto senza maionese, a me non mi piace. Un filo di olio non è asciutto, la voglia va bene così, dai, voglio dire extra vergine oliva. Questo è siciliano. Attenzione amico della Sicilia, se ascolti la Sardegna, cambio. Sta parlando, vai. Attenzione Sicilia, se ascolti la Sardegna. Minchia, buona buona arrivarsi. Ginuccia, buona buona arrivarsi. Comunque la Sicilia non sentiva la voce. Cazzo, sono le 7:30 e c'è ancora luce. Non sto guardando quel programma delle cose. No, non piace quel programma delle coppie. A me sì, mi fa difologie, le gelosie. Ma perché c'è un marino che mi manda sempre i benvenuti, ma la faccina che lui ha. Sento che la rimane è trovata con tutti. Oh, e lo sai, gli mancava... Era un fake, l'hanno messo su internet. Meglio così, dai, comunque, mettiamo se c'hanno anche i figli, cavolo. Si stavano baciando nella fotografia che c'è su internet. Ma sono contento che sono tornati insieme, dai. Ci dà visto tutti i colori prima, lì addirittura se lo vedevate a letto com'era, lo stavo a spuzzare. Vabbè, vuol dire che era un po' incazzata, che cosa l'ha fatto, tutto l'ha fatto, ho detto, esa. Ci hanno messo le corna a vicenda, Tony, sia uno che l'altro le ha messe le corna. Eda già è monaca. Vabbè, anche lui non è che sia brutto, io preferisco a lì. Senti, chi sono pure io? Edo non è brutto, c'ha un naso, pare nasone falcone. Vabbè, ma gli occhi chiari, al compenso non è un brutto ragazzo. Va bene di là. Forse non riuscivano a cavarli i piedi con gli avvocati, e hanno deciso di ritornare insieme. Comunque la miglior cosa che hanno fatto, se sono tornati insieme, sono contento. E anche per i figli, dai. Finiscono tutte così le storie di separazione. Io sono sicuro che Natalino ne ha ascolto, avrà anche già mangiato. Chi? Natalino. Ah, ho capito, la ragazza mia. Natalino avrà già mangiato tutto quanto, sta ascoltando a noi. E ci fanno vedere che è porco. Natalino ha ordinato in pizza, chissà quando vi la vega. No, che ce l'ha vicino, gliela portano subito a lui. E sa che mi ha dato una mezz'idea, mi pare che mi ripulire due pizzette. Risolto. Passo col cane e dico, vedi due pizzette fra poco, fra mezz'ora. Se me le prepara le rimango per il bimbo. No, vabbè, mi sa che c'è mia, mangio due bimbo, a me con tre lo mangia io, e mi sa che c'è mia, no? Se faccio da brava domani mezzogiorno, domani sera mi mangio le pizzette. Io ne ho mangiato due più di salata l'altro giorno, ho mangiato le salate e fagioli e le due pizzette. I fagiolini però sono pure con le patate, non so, sono carboidrati, però i fagiolini a morte sua sono con le patate. Già lo so. No, io le patate non le ho messe proprio per evitare di farmi sentire la glicemia. Ma se li fai con molta accetta, a me li piace un bel. Oh, io. Andrà bene. Comunque, verso le 8:30-9 fa, comincia a fare buio. E ma io alle 8 sono discendo. Sono già uscito per andare in farmacia a Salabria, sono uscito, mi ero dimenticato di prendermi tutta la barra, sono andato a fare, a pagarmi il condominio, sono andato a fare la spesa, eh. Ero vicino alla farmacia, mi sono dimenticato di andare a prendermi tutta la storia del diabete. Io invece sono uscito stamattina alle 7 e sono entrato a 1. E invece è andata a casa. Praticamente allora mi sono fatto un po' di giri, poi sono andato al patronato. Prima alle 8:30 ho trovato l'oppresso e allora ho fatto un giro, sono andato verso le 8, cazzo di 7 persone, poi faria fare la patapuccia, quando toccava a me e arrivava un estate interessante e la precedenza va passata. Poi quando stavo per uscire con l'indi viene un'altra col bambino neonato in braccio, sono la precedenza, allora mi dite a luci, insomma sono riuscito a portare da lì. Poi sono andato a fare qualche commissione all'ex moglie e a prendere la bomba, eccetera eccetera, insomma ho sbrigato un bel po' di cose, dai. Un casino, quando mai, ci sono giorni che non c'è nulla da fare, ci sono giorni in casa che non c'è più dove mettere la testa. E adesso dovrò portare la macchina a fare il tagliando, perché mi si è accesa la chiave e poi dovrò fare il tagliando alla macchina. Beh, quando c'è la chiave di fare tagliando sì, capelluri, eccetera, eccetera, quello che c'è da fare. Andrà bene, c'è da voi garanzia, sempre così. No, io tagliando non lo posso, io tagliando. La dai di due è appunto. Garanzia, è che non che è caduta la garanzia, c'è 5 anni qui la macchina mia. Vabbè, però, nel senso che la tiri sempre bene, nel senso che va perfettamente, io la controllo sia liquido, l'olio, l'olio da poco, l'ho aggiunto un pochettino, ma non ci si è detto. E infatti c'ho sempre olio in più perché ne ho comprato il 10-40 da poco, ne ho fatto una piccola scorta, cioè non la può farlo. Non sa mai che devo fare molti chilometri, come la controllo bene. Ecco, devo mettere, devo comprare stamattina, mi sono dimenticato il liquido per i vitri, che è quello già pronto, capito? Non è come quelle piccoline che la faccio io, no? E c'è una cagata. Io mi compro quello già pronto, il bottiglione, faccio prima. Ce ne sta quasi 2 litri da me. E dove sei andato a comprare la scala? Ce l'hanno, l'ho comprato io. Mi pare che costa 3,90 o 4,90, se non mi ricordo. Ed era 5 litri. Sì, da lì lo compro. La muraglia, lo compro che mi serve perché ogni tanto c'è qualche mundina che fate, di base non volete a casino, va. Che già sporca, io non l'ho fatta per il matrimonio. Cosa mi è durato? Un paio di lì, da lui ho fatto che sceva brutta, me l'ha tutta bruttata. Ariechime. Mi avanti. Oh, è lunga sta telefonata, sono tutto sbomballato, sono. Di cosa stai parlando? Ma, parlando di macchina e coso, tagliando quello e quell'altro, non roba da mangiare, tranquillo. Peccato. Vabbè. Niente, dai. E poi se Natalino l'ascolto, novità? Cosa vuol fare? Avrò predeciso? Si è preso impegni, si ha chiesto prezzi, prestazioni? No, non l'avevo sentito, ho sentito niente in merito a ciò che stai dicendo. Niente, io ho cambiato anche il microfono, cioè il palmare, perché praticamente quello mi pesava in mano, non ci sta il mobiletto, comunque penso che mi scoppi lo stesso bene. Sì, almeno l'altra è troppo amplificata, guarda, quello anche al minimo è tremendo, quel mic di prima, anche al minimo è troppo forte, infatti se volta non capisco bene il parlato, così è molto meglio, infatti io sto usando sempre il mic normale, perché alla fine a livello di capibilità è sempre migliore. E stavo pensando, non vorrei che poi Natalino chiamasse autoscala così, facesse le cose bene e poi questo da su, come gli girano le scatole, magari va a tirare il palo e gli faccia danno, quello è sempre un'incognita. C'è propagazione comunque, poco fa stavo parlando con un tipo in Maramobile a Milano, e con quel microfono, ho attaccato il microfono grande di nuovo, sciure, aveva lo chic perfetto, dai, mi sentiva bene. Sì, ma Natalino giustamente penso che lo dirà, sia a te che a me che, o a Gianni, insomma una mano se ci si può dare ci si dà, io te la prolunga ce l'ho, io ne ho 20-40 metri, quella ragione se la mettiamo accoppiata e se portare il trapano sopra non c'è problema, capito? Quindi per me problemi non ce ne sono, devi dare una mano a un amico o quelle altro. Avanti già. Sì, io glielo già ho detto che se ha bisogno di una mano, anzi gli ho detto che se riserva il palo c'è anche un palo da un pollice. No, no, dicevo, il problema però è sempre vicino, quello come gli gireranno le scatole potrebbe tirare e fare danno di nuovo. Se no ci vuole davvero una spedizione punitiva, io vi dico scherzando, ma... E poi ce la farà un pagamento. Ci mandiamo quei mafiosi nigeriani, quelli pieni d'oro, mi... l'altro giorno ne hanno visto uno lì al corso, con questa faccia brutta, tipo Scarface. Tutto pieno questa catena d'oro, sembra le catene, quelle antifurto degli scooter, anelli, bracciali d'oro, tutto ricoperto, ci saranno stati almeno 100.000 euro d'oro, quello deve essere il capobanda. Ma che giga? No, no, i negri, nigeriani, al corso. Cazzo, quelli di roba rubata, sicuramente, lo fanno sciogliere e poi si fanno gli anelli, fanno così anche i zingari, si fanno le collane grosse da magnacci. Un tempo tu si diceva, l'uverro a calabatteso, l'avevo sentita questa parola? L'uverro? L'uverro a calabatteso, cioè assoggettato. Buono, non ho sentito. Sì, ma quelle già, quelle cose, traffici di droghe, esseri umani, prostituzione, è vero, quella è mafia nigeriana, cioè, già, si vede, là. L'altro giorno è successo un fattaccio, hanno anche menato un residente lì, lo sai, li ha rimproverati per un qualcosa, ha chiamato la polizia e questi il giorno dopo sono andati e l'hanno menato. Sì, immagina centinaia o migliaia di sassaresi che abitano lì non possono o non vogliono fare nulla, perché sanno che gente è quella, capito? Quelli in pochi fanno danno a un veri gente, poi rumeni, di tutto. La colpa io la do sempre al sindaco, le basi dei Vainocchi. Io ti ho detto, che abito qua di Santa, che se io abitavo là e qualche giorno lo faceva che cazzata, avrei preso un'arma silenziosa. Già lo sai cosa sto parlando, una piccola freccetta. Ci sono ogni tanto una mattamura, magari. E sta dicendo che se ne è scappata lì perché gli rubava la stella, la roba, la moglie, che gli rubavano pantaloni, magliette, gli hanno rubato un libro, sa, questo amico mio. All'amica mia l'ha rubato la spesa, poverina, l'ha appoggiata nel portone, è andata a prendere il figlio alla scuola, s'ha donato, e tu non l'avrei tenuta. E se l'ha trovata già la spesa a domicilio. E allora, 50 euro aveva speso, poverina, gà. No, guarda, io sono razzista, dite proprio che voi, ma io lo sono diventato, io li odio, non venutava. E quando scendo via la Marmola, vedo che dopo via Moscatello, vedi i pakistani, quindi, in mezzo a Correa, ti guardano e non si spostano, io lo faccio apposta, scalo, accelero, no, non me ne ha fatto un cazzo, e dico, quando arrivo vicino si spostano, così non brinco, proprio vai, ci me ne auguro, vai. Qui l'altro giorno c'erano in queste nere a passeggio in città, 5 figli appresso e uno attaccato alla schiena lì così porta bambini, più piccolo, no? Quindi 6 figli, cioè qua la gente si pensa prima di fare figli per via dei soldi del bilancio, che non ti bastano soldi a campare, non arrivi a fine mese, e questi invece non fanno altro che fare figli su figli, sussidi, case gratuite, magari anche reddito di cittadinanza, poi se ti occupano, che ne so, la casa non li puoi mandare via, questa è follia. Ma questi qua prendono le reddito di cittadinanza, fate i migliori, ne vengono tanti, stanno sempre sbarcando, ma chi non sa ammazza, aveva ragione Mussi, a cannonate li avrei presi, una volta ho scritto su Facebook, avrei bruciato loro con la marca, me ne ha bloccato per un mese, è la miglior luce pure su Facebook. Allora dice che rispetto all'anno scorso, adesso bisogna essere vero, i giornalisti sono ballisti, però gli sbarchi sarebbero triplicati, fatti il conto, dove ce li mettiamo questi? Dove cacchio ce li mettiamo? Allora, sappi una cosa, che poi quando il video che fanno vedere è vero, perché sono tutti giovani, in caso strano non vedo un vice, non vedo una femmina, non vedo tutti i canti masci, mezzi piazzati, la mazza gliene varia. E i politici non hanno capito una cosa, anche prendiamo anche la comunità europea, perché è da lì che parte il puzzo, capito, che non gliela fotte nulla. Non ho capito che l'Africa non ci sta in Italia, questo lo devono capire. Sono troppi, sono milioni, milioni, milioni, di manager che muori, stanno già crepando, la Lampedusa, ma carità, e io, no, si lamentano, ce ne sono troppi e lo fate nulla. Li avrei affondati in Marconio, va, ma sedevi. Sì, anche in Francia, poi in Francia erano colonie, avevano colonie in Africa, visto le banlieue, stanno mettendo a ferro e fuoco tutta la città. È un macello, in Svezia sono messi malissimo, hanno il 20% di immigrati. Nota bene, ci sono interi quartieri, grossi quartieri, i quartieri siriani, i quartieri dei, che ne so, degli albanesi o la mal sorta che sono, i quartieri dei turchi, eccetera, lì non può, uno svedese non può entrare in quei quartieri. C'è di tutto, armi, spazio di droga, si ammazzano tra bande, è una cosa, questa è per la, però la, per il, la sinistra che è stata troppo permissivista in Svezia, in Italia lo stesso, e anche in tutta Europa. Capito? Troppo permissivismo adesso. Boh, c'era a dire. Guarda Marconi, che il casino che sta succedendo in Francia, oggi che oggi, già il stesso giorno, ultimo, è per colpa di quel poliziotto che ha sparato quel ragazzino di 17 anni in macchina che era senza patente. Quindi, e l'hanno arrestato e vabbè, comunque fanno bene, hanno le palle e grazie a Dio lo fanno. Però quindi bruciano le macchine, non c'entrano niente, rompono vetrine, non c'entrano niente. Fai casino ai poliziotti, hanno bruciato la casa uscita, il cancello che si manda succeda, hanno fatto bene, lì fanno bene, avanti già. Un casino, per ogni cosa in Francia fanno guerra. E poi hai notato, 61 anni andare in pensione in Francia, Macron ha detto 63 anni, hanno fatto un casino, noi ignoranti, caproni, asini, 67 anni non l'hanno mai fatto casino, quindi 61 anni andare in pensione, aiutai. Sì, poi una cosa che ha detto Torino prima, una cosa giusta del, aspetta cos'era, ma adesso mi sfugge. Mannaggia. Riferimento a che cosa? Ah, che arrivano giovani baldanzosi, ben piazzati anche. Questi sarebbero in teoria tutti rifugiati politici che scappano dalla guerra. Allora questi perché non prendono le armi, non imbracciano le armi e difendono il loro paese anziché scappare e venire a fare quella bella vita? E poi ogni viaggio che spendo a 3, 4, 5 mila euro, i soldi ce li hanno, perché non ti rimane nel paese dove si viene rubito dalle noghe? Perché la maggior parte sono tutti delinquenti. Allora sono aumentate le rapine, gli stupri, gli omicidi, tutto è aumentato, ma i clienti, caso strano sono sempre loro, buttali via tutti, tutti, neanche uno, vedi che in Russia non ci vanno questa gente, e cosa ci bisogna fare? È un casino, La Grecia avete visto, ha rifiutato la, quella volta lì, gli aiuti, ha fatto finta di niente. Erano morti non so quanti, adesso però a livello europeo magari li fanno casini, a parte che l'Europa già si sono mangiati la Grecia pezzo per pezzo, così faranno con l'Italia, capito, l'economia greca mangiata, divorata dall'Europa, e alla fine l'Europa cosa è? Tutto la Germania fa, la Germania impera e noi a obbedire, con questa storia della classe di, avete visto, come se fosse una nuova Europa, vogliono salire di due classi almeno di, noi siamo al sud, c'è un caldo boia qua, cosa volete isolare? Isolare da cosa? Vabbè, tu dici dal caldo. E come fai? Non è applicabile, cioè non è applicabile in un paese come l'Italia, costringere gente a indebitarsi, a fare spese, vabbè, lasciamo perdere. Comunque Marconi, io l'ho sempre detto e lo ribadisco sempre, vedrete se continuiamo questo passo, un domani ci comanderanno questi extracomunitari, a tutti i dire che è così, avanti già. Sì, già ne spese. E non solo, ma questi quando fra 20-30 anni saranno talmente tanti, e siccome sono islamici, la maggior parte, secondo me mezza Europa, tra Africa e Europa diventerà islamista lì, cominceranno a allargare, già lo sai come agisco, sono tutti per la pace, col Corano, poi però iniziano a tagliare testa, a bruciare i cristiani, cose già viste in tutta l'Africa. Voglio far quella, già me ne vado all'estero, se ci sono ancora, per carità, me ne voglio già andare in cosa io. E in Spagna, sta a Tenerife e ci sta molto bene, a Ceno che ma tipo Baleari, però chi ti dice che in un futuro questi cannibali non arrivino anche lì? Perché ormai non è solo Italia, stanno arrivando in tutta Europa, tutto, accogliamo tutti, poi tutti i rifugiati politici li vedi lì, davvero stuprando, spacciando, ammazzando, con macete, con... non esiste. No, non c'è più religione, voi di Maradino la legge è uguale per tutti, la mazza viene in varia, non è uguale per tutti. Perché si è notato Marcolì, allora, io bianco un italiano, ammazzo una persona, vergastoli. Un cacchio di nico perché sono razzista, un negro perché non si dice, ma io dico lo stesso, un negro ammazza un italiano, lo fanno un senatore, non lo denuncia, capito? Non li fanno niente. Purtroppo è così, sono i giudici per la vera mafia, sono i giudici, l'abbiamo sempre saputo. Poi c'è la mafia bianca che sono gli ospedali, lo sappiamo. Cosa vuol dire i siciliani la mafia? Ma cosa idea? La mafia è il governo, ma si sente, ma e i giudici. Pensi da animale, loro fanno quello che vogliono loro, se non mangiano soldi ti condannano, capito? Quante persone innocenti hanno fatto la galera per 20 anni, ha detto adesso paghi l'esarcimento, però avete così, hai sbagliato al giudice, vai in galera tu adesso, questo devono fare. Adesso quell'altro animale che ha ucciso quella ragazza di 17 anni, e io fa la vita psichiatrica, è così da 3 anni, bombacca. E io ho scritto, se il giudice non lo condanna all'ergastolo, e vuol dire un giudice fasullo, l'ho scritto su Facebook. Perché se fosse stata la figlia, vedete come si comportava il giudice, capito? A manicomio criminale l'ho, cosa va a dire al giudice, l'altro l'ho coltellato perché l'ha matto in 30 euro, ma non si dice, Tommaso, ma sono 30 euro, poi ha detto 7-8 coltellate, no una, vai, fatti l'ergastolo, e dice, me la penso. Anzi, ma è come criminale, una camera immutita, così un tipo così, manco un capo al muro, naturalmente non sarebbe. Niente, io sono severo su queste cose, tu hai tolto la vita un ragazzo di 17 anni, ma non ti innanzi, niente, perdono. Vediamo Gianni cosa ne dice. No, a parte gli scherzi, è stato troppo scigliato a spararli, è un casino. Quello, vabbè, non si è fermato al posto di blocco, ci sa, ma sparano le ruote, non sparano mai addosso alle persone. Aveva già la pistola in mano, ha detto ti sparo in testa, l'ha anche detto, e poi quando è partito quel ragazzo si è messo il filmino, l'ha sparato in testa, è morto, è andato a smattersi contro il muro, poi quello è poliziotto, è morto, è andato verso la macchina, è sceso l'altro amico che era seduto a fianco, l'ha pigliato e l'ha caduto a terra, si è visto tutto, dai. Sono molto violenti i poliziotti, sono molto violenti. Come gli americani, né più né meno. E poi qual era il fatto che la ragazza che ha ucciso quella ragazza fa 30 euro, non esiste. Quello lì mi pare che ha raccontato male, che se la voleva fare, lei non c'è stata e è successo quello che è successo. No, no, lui ha dichiarato che doveva dargli 30 euro per la droga e bombazza, non ha dichiarato altro, capito? Ma lui può dire quello che vuole, tu che lui per scagionarsi può dire quello che vuole. Io non avrei accettato la visa psichiatrica, no, la visa la fa in galera, in manicomio criminale, perché uno che arriva a fare 7-8 coltellate a una ragazza è manicomio criminale, non c'è altra cosa. Se lo stato io il giudice, per carità, avanti Marcolini. E sai cosa, i giudici è come che non vivessero la vita reale come la viviamo noi, sembra che vivano una specie di paradiso di leggi, regine, regolamenti. Non è gente che lo prova sulla propria pelle, siccome non escono nemmeno nella... in città, no, capito? Questi vivono una vita blindatissima e quindi non si rendono conto di quello che succede. Piuttosto, ma la ragazza aveva 17 anni, sicuro? Cappa! Sì, cacchio, ma sai perché? Allora, notizia di 2 giorni fa. Il ragazzo uccide la fidanzata di 15 anni a colpi di pistola davanti al fratellino, capito? Lei lo voleva lasciare, un altro fattaccio di sangue. Dov'è questo, eh? Non so dove sia. Capito? Ma dove cazzo l'ha trovata la pistola un quindicenne? Boh. E perché quel ragazzo che ha ucciso quel ragazzo di bambino di 5 anni che aveva la signora che in macchina, che è andata all'ospedale anche lì, quel su, quella cos'era, macchina sportiva, c'era giù un fresco e facendoci il filmino, e lì mi bisognerebbe fare che passone neanche per la posta, anche ieri un altro incidente, questo contro mano con su contro che c'è macchina la mia in pieno, è morta anche quella donna, si è sotto svolto la guarda, aiutai, non esiste. Ma poi il cubettino con la macchina che ha preso in noleggio su, che faceva il video 50 ore da stare in macchina, 1500 euro al giorno, ma che mi date che ne ha? E poi non ci ho preso come moto, non sta avvicinato a quello di girare, è tutto un casino. Io che mi zitti, ti giuro, l'avrei sparato in testa. Morti, tu non sei una persona che puoi vivere nella civiltà, nella società, assolutamente. Io l'avrei ammazzato subito. Comunque ho preso una bambaglio, credevo fosse roba italiana. E no, è Colorado, Colorado, Stati Uniti. Ecco perché le armi lì girano e lì a furia dura. Sì, là c'è libera vendita, capito? Là, altro che Rambo, è chi vi compare già vita impara nella tua sai. Lei capiglia non ci vive quella zona, per carità. Avanti già. Lì prendono in ostaggio alcuni professoresse e ammazzano tutti. C'è quello che c'è di Gabu. Sequestra la professoressa, prende in ostaggio gli alunni, lui spara, ammazza gente, c'è ragazzini qui. E poi tornando un po' indietro, qua sempre in Italia, quel stronzo ragazzo stronzone che l'avevi bucato Rucci, ti giuro, gli avevi dato i dell'occhi, tolto la pupilla, che ha sparato con la professoressa Giovanna Vazigica, l'ho anche promosso, riprese Malazucchi, la compagna Boedo, l'avrei arrestato anche a lui, no, con 9 condotta, ma non che condotta, condotta non è più uno che si comporta così, si porta la pistola ed è compresa da casa sua, e con l'intento già di fare quello, è una cosa prioritato, quindi automaticamente nuda, carcere minorile subito, è escluso dalla scuola, attenzione alle scuole, ma sto scherzando, no, no, vedi non c'è giustizia, io quando sento queste cose al telegiornale, mi alzo una rabbia, dico mamma età, in che vita viviamo qua? Allora, quel ragazzino sicuramente aveva di quelle pistole soft air, pallini da 6 mm di plastica, no? Che se prendono l'occhio, sì, puoi perdere anche l'occhio, no? Sono, vabbè, giocattoli, li usano nelle guerre simulate, giocattoli ma non troppo, diciamo, dai. Però, per dire, io voglio capire perché non hanno proceduto, se non hanno proceduto. Allora, se io porto fuori dall'abitazione quella pistola lì, soft air, solo portarla, mi denunciano per porto di oggetti atti a offendere, lì perché non hanno fatto niente, dovevano agire prima di tutto da quel punto di vista lì, e poi col cacchio le avrei promossi col 9 pure in condotta, bocciati, cioè, io non potevo neanche pensare, avevamo insegnato delle medie o delle superiori di sparare in testa con una persona con una pistola, vabbè, sempre non è a piombini, è a palline, però può far male, cioè, non esiste. E poi tra l'altro gli amici riprendevano il filmino, stiamo scherzando, ma dove siamo? No. Io ho scritto anche su Facebook questa cosa qua, e su quel ragazzo che ha ucciso quella ragazza, ho scritto che se io ero il padre di quella ragazza, io lo mandavo al creatore, questo è stato Dio a condannarlo, cioè io lo mando al creatore, cioè ti ammazzo subito, l'ho preso. Sì, ma la vendetta va assaporata fredda, che ne sai se fra mesi o anni, con tutta calma, il genitore paga qualcuno e lo fa gambizzare, o peggio. Vedrai che questo stronzetto 2-3 anni e poi fuora, sai quello che è così, la carità. Ragazzi, dai, comunque, sono quasi 8-5, io vi saluto che vado, ho già un po' di appetito, perché faccio un po' volume qua. E mi preparo a mangiare e mi guardo un po' il telegiornale, speriamo qualche rossetto non ha fatto cazzata del genere, perché è da fastidio queste cose qua. Ok, grazie del consiglio della compagnia, ciao Gianni, ciao Marcolino, ci sentiamo alle prossime, ciao ciao. Ciao ciao Tony, e anch'io fa un po' come va, dai. Marco, non so se tu ti guardi il giornale, ma me lo devo guardare, dai. Ci sentiamo magari, dai, alle prossime, se vuoi trattenerti alle 10 minuti il resto, dai. Ciao Tony, ma giusto 5 minuti mi. Ok, ciao Tori, buona serata, buon tutto e ci sentiamo. Sì, il mondo sta andando a rotoli. Allora, poi non capisco, le forze dell'ordine da una parte sembrano che facciano abusi su abusi, no, dall'altra sembrano dei impotenti, incapaci di fare tutto, boh, non, è strana questa cosa, te capisci? Già me capisci, sì sì, ma poi usano metodi proprio fascisti allucinanti, picchiano anche quelli di colore, insomma, ci sono gli americani di colore, li picchiano. Guarda, lì sono scoppiati forte. Oh, conta che c'è una delinquenza folle lì, se c'è gente che al normale posto di controllo ti tira fuori la pistola, ammazza il poliziotto. Infatti lì bisogna tenere le mani ferme in vista sul volante, cioè, solo se ti dicono prenda il portafogli allora devi muovere la mano, però anche lì ci sono abusi da parte loro, perché sono degli scoppiati, dipende dagli stati, sai, certi stati del sud, no? Con i neri, se sei nero, se sei nero povero e in uno stato del sud devi stare molto attento con i controlli di polizia. Oh yeah. È un casino, sono lì, lì non guardano che faccia nessuno, oh yeah. Mi stavo guardando una cosa su internet, vabbè. Mi hanno mandato un messaggio. Babbo Marco, dai, ti lascio che è tardi, ci sentiamo domani, dai, che devo anche telefonare a Franco perché poco fa mi ha chiamato, poi mi ha chiamato Torino e mi ha detto dai, li chiamo io dopo. Ok, ci sentiamo, dai, stammi bene Marco, grazie per le questioni. E io Gianni, guarda il messaggio, ho cambiato hobby. Ok. E già ci sentiamo, ciao, buona passeggiata col cane, ciao. Se non mi annoio, capito, sempre devo un po' cambiare, sempre attinente però alla, a tirare a qualcosa. E voi mi sa che a chi ruba e fuzza tu. Certo, io l'ho preso per la campagna, campagna c'ho fino a 50 metri credo almeno, dove c'è il muro di protezione alto, capito? E lì ti rivedi, a casa vai, 12 metri sono pochi, infatti non fa. Ok, ciao ciao. Ciao Marco, ci sentiamo. Salutami bene tutti, anche gli ascoltatori. Ciao ciao. Llama y queda la escucha.